qualcosa mi dà, un impulso in testa che mi scatena la tempesta dentro, tutto mi va, cortocircuito, basta uno stamento che parte, un delirio, un gran bailame, un corpo fatto tutto di lingue di fuoco e fiamme. Per questo ancora non so se mi salverò. Una bomba anche nel cervello che mi scoppia, sempre su più bello nel cuore, morde carosello. Una bomba anche nel cervello che mi scoppia, sempre su più bello nel cuore, morde carosello. Finisco a farmi medicare all'ospedale, a dire il vero, io voglio farmi male a modo mio, a bruciapelo, sono belle arti anche gli infarti. Per questo ancora non so se mi salverò. Una bomba anche nel cervello che mi scoppia,